Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempo di Covid. Allora partiremo con quello che capiterà lunedì prossimo e quindi le domande dal primo pomeriggio di lunedì 15 giugno e fino al 24 agosto. Le imprese potranno spedire all'Agenzia delle Entrate il modello telematico per la richiesta dei contributi a fondo perduto. La platea degli interessati è quella dei contribuenti con partita IVA e in particolar modo imprese anche agricole e titolari di reddito da lavoro. I requisiti poi li ricorderemo: è necessario che i ricavi e i compensi nel periodo d'imposta 2019 non abbiano superato la soglia dei 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 il fatturato sia calato inferiore più del 30%, insomma. Quindi deve essere superiore a, deve essere un fatturato inferiore ai 2/3, che come dire deve essere il calo superiore al 33%. Sono esclusi i professionisti iscritti alle casse degli ordini privatizzati, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, gli enti pubblici e i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori introdotti da Cura Italia, quindi i 600 euro. Di fatto sono esclusi i professionisti iscritti agli ordini perché il governo ha ritenuto che in quel caso non si potesse parlare di impresa. Il contributo, poi il Sole 24 Ore dedica 4 pagine a questo, ne parleremo nel Sole 24 Ore, nel quotidiano in edicola domani. Dicevo, il contributo va dal 20% della differenza tra il fatturato dell'aprile 2019 e il fatturato dell'aprile 2020, appunto se il calo è più forte del 33%, ma penso che non ci vorrà molto a trovare imprese in queste condizioni purtroppo, fino a 400.000 euro. Poi è lo Stato dal 15% fino a un milione, da 400.000 fino a 1 milione di euro, e il 10% da 1 milione fino a 5 milioni di euro. L'importo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche. E la cosa che ha fatto un po' discutere, ho visto mail che sono arrivate anche a me, è che alcune imprese, anche nella fascia, allora non sono chiaramente imprese grandi, sono 5 milioni di euro, ma anche imprese, diciamo, non, in alcuni casi nella fascia ad aprile hanno fatturato commesse che avevano ottenuto nei mesi precedenti, a gennaio e a dicembre. E quindi lì il problema è che magari poi sono gli ordini che non ti sono arrivati nei mesi successivi e che non fatturerai chiaramente a rappresentare il crollo del fatturato. L'altro elemento è che qualcuno ha fatto notare, ma lì purtroppo una soglia andava messa, beh, se io ho perso il 30%, o il 28% non ho diritto a niente, invece uno che ha perso il 33% o il 34% sì. Mi rendo conto che per soli magari 5 punti percentuali di differenza uno abbia o no questo 20%, però una soglia andava messa. L'altro elemento invece per cui non riesco a trovare i fazzoletti e la lacrimuccia è chi fatturava in nero, e quelli sono problemi suoi. Nel senso che se tu ad aprile 2019, diciamo, su 100.000 euro, poniamo 10.000 euro di fatturato, ne facevi 5.000 in nero, è chiaro che per lo Stato quello che varrà è la parte che tu hai dichiarato. E quindi se ne dichiaravi 5.000, si andrà a vedere la differenza, e adesso ne hai incassati, ma poniamo 1.000, si andrà a vedere quella differenza, anche se per te la differenza è di 9.000 e non di 4.000, ma non è che possiamo anche occuparci del nero da questo punto di vista. Poi invece parleremo anche dei viaggi e delle stime sui viaggiatori in tempo di Covid, perché in realtà ci sono stime comunque di un calo, questo era scontato, sia nel segmento business Solo il 2/3 dicono che viaggeranno con la stessa intensità di prima in aereo, il 23% intende viaggiare di meno, il 10% addirittura intende viaggiare più di prima. Nella parte leisure, quindi non i viaggi, i voli d'affari, la percentuale di chi intende viaggiare quanto prima è pari solo al 35%. Chi dice che viaggerà di meno, cancellerà i viaggi, è il 40%, però c'è anche un 25% che viaggerà di più. Le destinazioni domestiche, parlo degli italiani, sembrano essere preferite, il 63% degli italiani rispetto al 54% in Europa vuole restare in Italia. L'indagine è condotta infatti in 9 paesi, tra cui l'Italia e 5 paesi più coinvolti in Europa. Si segnala che gli italiani, vuoi anche per le bellezze, per il tipo di paese in cui per fortuna viviamo, hanno una percentuale più alta tra quelli che vogliono restare in Italia per queste vacanze. E tra l'altro cambia il modo di viaggiare anche nel lungo periodo, per cui sostanzialmente si tenderà a stare di più o in Italia o in Europa. Prevalgono le soluzioni di viaggio individuali, auto, rispetto a treno e aereo. Dunque, solo però il 5% degli italiani ha già prenotato, questo lo scopre un'altra indagine realizzata da Demoscopica e ne parleremo. Infine il Family Act, quello annunciato ieri anche in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, andremo a vedere i vari aspetti, non entrerà in vigore prima del 2021, ma i vari aspetti del Family Act che ieri è stato approvato appunto con conferenza stampa poi del Presidente del Consiglio, come cambia, diciamo, sostanzialmente come cambiano i congedi parentali, ma anche il cosiddetto assegno universale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Qualcuno contesta che ho detto fatturato in nero, volevo dire ricavi chiaramente e giro d'affari in nero, è difficile che tu fatturi il nero, mettiamola così. Qualcuno invece mi stava facendo notare che un artigiano ha fatturato zero in aprile sia nel 2019 che nel 2020, solo che a maggio del 2019 fatturò 7.000 euro e adesso zero. Sì, questo è il problema, cioè, magari l'artigiano, che è un classico esempio anche di piccoli ammontari, aveva degli ordini, aveva delle commesse, aveva appunto delle opere da eseguire che magari venivano pagate a maggio, fa il raffronto aprile su aprile. Ecco perché io avrei al posto del governo esteso non tanto l'ammontare, ma diciamo il periodo, perché forse era meglio dire marzo-aprile o aprile-maggio, cioè un mese rischia di creare alcune distorsioni. E poi non può essere unico. Facciamo un altro esempio: settore turistico alberghiero. È vero che delle volte lavorava, in alcuni casi lavora anche ad aprile perché c'è il Ponte Pasquale, ma in molti casi, penso alla montagna, ma anche al mare, non alle città d'arte, il grosso dei fatturati li fai o d'inverno o, nel caso del mare, soprattutto da maggio, giugno fino a settembre. Allora è chiaro che andare a dare solo su aprile può creare delle distorsioni. Ecco perché andano prese misure poi specifiche per i singoli settori. Sapete che è un tormentone a cui tengo molto, nel senso che superata la stagione turistica dovremmo andare a vedere a settembre qual è il fatturato, per esempio, dei soggetti che operano nel mondo del turismo, alberghi, ristorazione, attività connesse, che chiaramente la botta non l'hanno ancora presa in termini reali. Sì, gli è mancata il ponti di maggio o le vacanze pasquali, ma il grosso della botta, inutile girarci attorno, arriverà quando, da adesso in poi, cioè da giugno in poi, quando tipicamente arrivavano prima gli stranieri, poi anche gli italiani. Ecco perché dico, è una misura tampone per quei mesi di lockdown. Poi bisognerà vedere quali settori segneranno a settembre un rosso profondo. Sì, poi ci sono delle cose che non capisco. Mi scrive un ascoltatore: a malincuore ho dovuto prenotare l'albergo in Austria rispetto alla Valpusteria immagino, o Valbadia, ho risparmiato il 50%. Però qui bisogna capire, se non ho elementi per capire dove abbia prenotato, però attenzione a quei rincari, lo dico perché poi insomma, grazie a internet, grazie a web, uno può andare a fare raffronti anche con le offerte degli altri paesi molto vicini, Slovenia, Austria, Croazia. Attenzione a pensare di poter recuperare mancati guadagni aumentando il listino prezzi, purtroppo lo vediamo nei generi alimentari, frutta e verdura, ma lì hanno un vantaggio tra virgolette, sono generi spesso di prima necessità e tu è difficile che rinunci ai pomodori, alla mela o alle zucchine. Altra cosa è se devo andare in vacanza, se voglio e posso andare in vacanza, beh insomma non è un bene di prima necessità, lo dico agli albergatori perché immagino che una politica attenta porti anche a non scaricare sul cliente finale costi in più i mancati guadagni, se no. Allora, qualcuno adesso mi sta dando un messaggio, non è vero, in Val di Fassa stesso prezzo di dieci anni fa, per carità, ho citato un WhatsApp, ma andiamo avanti. La borsa oggi non è in recupero, è invariata, quindi non sta recuperando il calo forte di ieri. Parigi invariata, anzi, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Milano più 0,20, Londra più 0,30, Dow Jones più 0,60, negativa Biper Banca del 2,30, Diasorin dell'1,20, Leonardo dell'1, come Nexi ed Extreme Microelectronics e Salvatore Ferragamo. Bene, Telecom Italia più 3,5, come Atlantia, Banca Generali più 3, Italgas più 2,80, Mediobanca più 2,5, Campari più 2, come CNH, Saipem più 1,60, 1,5 Poste e anche Moncler, l'1,20 è il rialzo di Banca Mediolanum, l'1% quello di Fiat Chrysler. Andiamo avanti con le altre notizie, partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. Allora, sostanzialmente è salita la fiducia dei consumatori americani a giugno, un aumento sopra le attese, ed è un altro segnale, oltre a quello sulla disoccupazione, che forse le cose stanno recuperando negli Stati Uniti. La fiducia è misurata dall'indice Michigan. Per quello che riguarda il Centro Europeo per la Prevenzione e Controllo delle Malattie, dice che la prima ondata di contagio ha superato il suo picco in tutti i paesi europei, tranne Polonia e Svezia. Ma la pandemia non è finita, vabbè, questo l'abbiamo capito. Ed è improbabile che l'immunità di gregge arrivi entro l'inverno. Beh, con questi dati, in alcuni stati, le indagini sierologiche condotte in alcuni stati portano l'elemento più alto di immunità, cioè di gente che ha contratto il Covid o in maniera sintomatica o purtroppo in maniera sintomatica, al massimo al 6% della popolazione. L'aprile la produzione industriale europea crolla del 17%, ma abbiamo già visto ieri, commentato ieri il dato italiano. Il presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, l'italiano Andrea Enria, ha detto, ha chiesto alle banche di dare liquidità all'economia, ha detto resto sconcertato dalla riluttanza nel dare liquidità all'economia, e le riserve di liquidità sono cresciute nelle banche e ci sforzeremo di creare un percorso verso una normalità ben progettato e credibile. E poi ha riaggiunto: le banche hanno più capitale e più risorse per fronteggiare la crisi rispetto a quella del 2008-2009, questo non vuol dire che si possa rilassarsi, va bene. In Germania Angela Merkel ha firmato la riduzione dell'IVA prevista dal pacchetto di aiuti da 130 miliardi. Da luglio fino al 31 dicembre l'IVA in Germania passerà dal 19 al 16% e quella agevolata dal 7 al 5%, con l'obiettivo di stimolare i consumi, e speriamo che lo stimolo dei consumi tedeschi aiuti anche l'export italiano. E poi le famiglie riceveranno un bonus una tantum di 300 euro per ogni figlio. E il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha detto: con la misura più importante, quella dell'IVA, confido, sono ottimista che questo porterà a una flessione dei prezzi. Boh, non so come funzioni in Germania. Gran Bretagna, il dato del PIL tedesco del PIL britannico, è il peggiore tra i peggiori che ho visto fino adesso, -20% ad aprile su marzo. Adesso andremo a vedere anche il dato, fare una verifica col dato del PIL italiano aprile su marzo, e -25% il PIL britannico rispetto all'anno prima. Questo, gli analisti si attendevano un calo del 19%, 18,7%. Però è strano, perché il lockdown britannico, come sappiamo, è stato più morbido, anche come severità, rispetto a quello italiano. Eppure, dopo che avevano fatto un -5,5% a marzo, adesso anno su anno la Gran Bretagna fa -24,5%, mentre la Brexit torna in alto mare, non si vuole estendere la transizione, quindi finisce col 31 dicembre e poi vuole indicare un percorso in tre tappe per il nuovo regime, per i controlli doganali. C'è molto lavoro da fare sulla frontiera con l'Irlanda, ha detto invece il vicepresidente della Commissione Europea Maros Šefčovič. Con la riapertura del Brennero intanto riprende anche il traffico transfrontaliero. Dal 16 giugno i treni regionali austriaci raggiungeranno nuovamente il valico, mentre dal 20 giugno riprenderà la circolazione, parlo la circolazione locale, l'Allianz San Candido in Val Pusteria, per chi la conosce, insomma, è anche ciclabile come pista. Dal 4 luglio invece i treni austriaci raggiungeranno nuovamente Bolzano e Trento. Le linee ferroviarie austriache, ma anche quelle tedesche, operano anche per esempio da Verona la Deutsche Bahn, e quindi ci sarà anche il trasporto, non quello merci di lunga distanza, ma anche quello più cosiddetto appunto transfrontaliero. I dati di oggi dell'Istat sulla disoccupazione nel primo trimestre, attenzione, come continuiamo a dire anche con l'ultimo dato, calando il numero di persone che si dicono in cerca di lavoro. È chiaro che cala il tasso di disoccupazione, ma il tasso da guardare è quello della occupazione. Sono 101.000 occupati in meno nel primo trimestre, e faccio notare che c'è ancora il blocco dei licenziamenti. E la disoccupazione cala al 9,4%, ma solo come effetto statistico, perché c'è meno gente che cerca lavoro, perché c'è meno gente che pensa di poterlo trovare, quindi non risulta disoccupata, ma devi guardare il numero di occupati, fatto 100 il totale di chi potrebbe lavorare, e scende di 101.000 unità, e infatti gli inattivi sono aumentati di 290.000. Dunque, andiamo poi alle domande di finanziamento per le imprese, visto che resta il tema. A quanto sono arrivate? Sono arrivate a 30 miliardi. Attenzione, le domande, quando diciamo le domande pervenute al fondo di garanzia, vuol dire che sono le domande già processate, già elaborate dalle banche, che quindi hanno ottenuto il via libera dal punto di vista dell'autorizzazione bancaria, e sono arrivate al fondo di garanzia. Allora, sono 605.000. con finanziamenti richiesti che hanno superato i 30 miliardi di euro. Stiamo parlando di prestiti, non di fondo perduto, però sono prestiti a lunga scadenza, e soprattutto quello dei 25.000 diventati 30.000 euro, con tassi di interesse molto molto bassi, e che non vanno pagati poi, va pagato solo il tasso di interesse nei primi due anni, poi si inizia il rimborso vero e proprio dal terzo anno. E dicevo, 30 miliardi di euro con un aumento di 1 miliardo al giorno. Di queste, 547.000 su 600.000 sono appunto le domande per finanziamenti fino a 25.000 euro, dimostrazione che anche quello, che anche di quello c'è molto bisogno. Stiamo parlando di più di mezzo milione di partite IVA, imprese che hanno chiesto questo finanziamento da 25.000 euro, che supera complessivamente gli 11 miliardi di euro. Poi gli altri 19 miliardi invece vanno nei rimanenti 50.000 richieste, che sono quelle più alte, quelle da 800.000 fino a 5 milioni di euro. Continua ad andare molto bene anche le domande di moratoria, cioè di sospensione dei pagamenti sui prestiti. Hanno toccato 2 milioni e mezzo per un valore di 266 miliardi di euro. Il ministro Gualtieri ha detto i rischi di un PIL a ribasso ci sono, ma la nostra stima resta di un meno 8%. Faccio notare che Banca d'Italia e OCSE invece sono ben più negative, individuano un crollo del PIL italiano tra il 10, 11 e addirittura il 14% in caso di una seconda ondata. E poi Gualtieri ha ribadito: non abbiamo in programma nessuna tassa patrimoniale, continueremo invece a combattere l'evasione. Alcune aggiornamenti invece sul DPCM. Ieri Conte ha annunciato che dal 12 giugno, quindi, riprendono, come sanno tutti gli appassionati, quindi da oggi, le gare, gli eventi sportivi, e poi riprendono anche i centri estivi anche per i bambini in età da nido da 0 a 3 anni. Questo è il nuovo DPCM. Restano sospese tutte le attività in sale da ballo, discoteche, fino al 14 luglio, e anche le fiere e i congressi. I corsi professionali invece potranno essere svolti in presenza. Le attività dei centri benessere, centri termali e culturali sono consentite a condizione che regioni e province abbiano accertato le compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica. Ok alla riapertura delle sale giochi purché compatibili con la situazione dell'epidemia, ed è aumentato a 120 ore, quindi 5 giorni, il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso sul territorio nazionale per comprovate ragioni di lavoro. Cioè, se tu resti al massimo 5 giorni non hai l'obbligo di quarantena, ma devi venire qua per motivi di lavoro. Parliamo di stranieri che entrano in Italia. E da lunedì potrà essere scaricata l'app Immuni su tutto il territorio nazionale. Io non ho capito una cosa, però, ma lo chiedo. Ho visto, per fortuna, una forte presenza di tedeschi e austriaci, per esempio, nelle spiagge venete, Lignano, ma anche Venezia, ma lì vengono solo per 5 giorni e poi se ne vanno, perché sennò, se ben capisco, cioè, hai l'obbligo di quarantena. Siccome ci sono, per fortuna stanno tornando gli stranieri da quando, e arrivano segnalazioni anche dagli esercenti, vorrei capire come entrano, come vengono controllati, se vengono controllati, non lo so. Oh, gli stati generali dell'economia, e poi andiamo sul tema del fondo perduto, però lo facciamo, dei finanziamenti del fondo perduto, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, parliamo adesso anche dei soldi. Molti mi stanno scrivendo, c'è pieno di tedeschi a Jesolo, a Carlo. Ho detto che Lignano era in Veneto, chiedo venia a tutti i friulani, a tutti gli abitanti di Lignano Sabbia d'Oro, di Lignano Pineta. Però Carlo e Jesolo sì, dovrebbero essere ancora in Veneto, e anche a Grado, anche all'isola d'Elba. Bene, ma infatti, insomma, c'è stata l'apertura dal 3 giugno. Io sto cercando di capire questo DPCM di ieri, 5 giorni in Italia, chiedo venia, ma insomma, così intuitivamente penso che sia per gli extracomunitari, cioè per chi viene da altri paesi fuori dall'Unione per lavoro, e può stare fino a 5 giorni, cioè hanno allungato il periodo massimo di permanenza. Però stiamo cercando, a dimostrazione che il DPCM ogni tanto. Dunque, Giovanni Tria, l'ex ministro, questa mattina con Maria Tella e Simone Spezia, 24 mattina, strani gli stati generali che iniziano con la troica. Devo darvi un aggiornamento, allora sentiamo prima Tria e poi vi do l'aggiornamento sugli stati generali che inizieranno domani e su come funzioneranno. Crea un po' perplessità il fatto che questo convegno si apra essenzialmente con la troica. Nei convegni a volte per avere prestigio si chiamano persone importanti. Certo, dal punto di vista comunicativo, questo appello alla troica, io l'avrei forse diciamo, evitato, anche perché un evento che viene presentato, questa è la perplessità, per raccogliere opinioni e idee, ma sa, un governo, ogni ministro, ogni Presidente del Consiglio ha delle interlocuzioni quotidiane con questi personaggi, come le hanno con i grandi imprenditori, con le parti sociali, ci fanno continuamente, quindi non è che in un evento del genere lì si sentono le opinioni e si raccolgono le idee, almeno io immagino che le sia stato fatto finora, altrimenti mi preoccuperei. Dunque, come funzioneranno gli stati generali? Allora, domani alle 10:20 dovrebbe essere l'indirizzo di apertura del Premier Conte, poi il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, alle 11 Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, alle 11:30 Paolo Gentiloni, Commissario Europeo all'Economia, poi Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, prenderà la parola alle 12, anche se ancora da confermare. Alle 12:30 interverrà probabilmente Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, poi la pausa, poi alle 14:30 Ignazio Visco, quindi Governatore della Banca d'Italia, alle 15 Angel Gurria, Segretario Generale dell'Ocse, e alle 15:30 Cristalina Georgieva, che è la Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale. Poi si terrà il panel Policy in the Post-Covid World, Challenges and Opportunities, parteciperanno Raffaella Sadun, che insegna alla Harvard Business School, Olivier Blanchard, che è professor di Economics emerito alla cattedra Robert Solow, e poi John Van Rien, che viene dall'MIT di Boston, e poi il programma della settimana prossima, dei prossimi giorni. Allora, qui vedo molti commenti, diciamola così, può avere un senso avere questi ospiti, può anche essere un successo del governo avere portato tutti questi ospiti di carattere internazionale, non la definirei una troica, ci mancherebbe. Faccio notare che altri paesi non hanno avuto bisogno degli stati generali e che la cosa più importante a questo punto, visto che li fanno, che un minuto dopo, diciamo così, la conclusione di questi stati generali, i vari ministri, ministeri e il Presidente del Consiglio abbiano le idee chiare su come rendere esecutiva subito le proposte che sono state condivise, non aspettare, riformularle e quant'altro, perché sennò è solo e si rivelerà solo una passerella. Andiamo avanti invece con il confronto sull'anno scolastico. Oggi non voglio neanche ipotizzare quello che ho letto, che forse le scuole inizieranno 10 giorni più tardi perché ci sono le lezioni regionali, ma fatele iniziare direttamente a Natale, che famo prima e ci colleghiamo col ponte di Sant'Ambrogio e poi andiamo direttamente anche a Santo Stefano. Però oggi era ospite Patrizio Bianchi, coordinatore del comitato esperti del ministro dell'istruzione Azzolina, ospite di Alessandro Milan a Uno Nessuno e 100 Milan, e ha detto: ci stiamo confrontando con le regioni sull'inizio dell'anno scolastico, bisogna riaprire le scuole il prima possibile. La scuola non è un problema di ordine pubblico dei professori, delle famiglie o anche dei ragazzi, è il pilastro della crescita di un paese. Il nostro paese è il paese che è cresciuto di meno dal 1990 fino al febbraio del 20, di meno di tutti i paesi, ma è anche il paese che ha, lo sappiamo, investito meno in educazione. Forse le due cose sono collegate. Collegate in particolare considerando che in mezzo c'è stato un salto tecnologico che ha cambiato non soltanto la nostra vita quotidiana, ma è cambiato anche per le imprese, è cambiato per l'economia. Allora la scuola deve essere il motore non soltanto di una nuova società ma anche di una nuova economia. Io credo che sia questo il punto, io credo che sia un bisogno nel paese di riaprire le porte della scuola il prima possibile. Se poi questo non è possibile in tutte le regioni, si troveranno dei modi comunque per far tornare i ragazzi ad una condivisione di attività comune. E poi segnalo, ieri abbiamo avuto Miozzo che ha detto il comitato tecnico scientifico, io non ho mai chiesto, non ho mai proposto amministrazione al Plexiglas, non si capisce chi l'ha proposto sul Plexiglas, l'avrò proposto io a sto punto. Oggi anche Andrea Crisanti, un direttore del laboratorio di microbiologia e virologia di Padova, ha detto sì al ricambio dell'aria nelle aule, no alle barriere in plexiglass, perché ha detto quelle non permettono il ricambio dell'aria. In effetti non ci avevo pensato, ma ha ragione, che mettiamo queste barriere se poi diciamo di aprire le finestre perché deve essere l'aria in riciclo d'inverno? Dio, al nord auguri, insomma. E dice che il Veneto è disponibile a fare studi per capire come è avvenuta la diffusione nella comunità scolastica in passato, potremmo fare dei campionamenti sierologici a varie fasce di età. Andiamo ai contributi a fondo perduto. Domani il Sole 24 Ore dedica 4 pagine, se ho ben capito, perché da lunedì si potranno richiedere in edicola, sia appunto uno speciale di 4 pagine per arrivare preparati al pomeriggio di lunedì. Non sarà un click day, per fortuna. Si avrà tempo dal pomeriggio di lunedì 15 fino al 24 agosto per spedire all'Agenzia delle Entrate il modello telematico per la richiesta delle risorse a sostegno delle perdite subite. La platea è fatta da tutti i contribuenti con partita IVA, in particolare imprese anche agricole e titolari di reddito di lavoro autonomo. Non si applica invece ai professionisti iscritti alle casse degli ordini privatizzati, agli intermediari finanziari, agli enti pubblici, ai soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori, quindi 600 euro, quelli introdotti dal Cura Italia, e alle società di partecipazione. Allora, come si calcola il contributo? Non è difficilissimo. Si prende il fatturato del mese di aprile del 2019, si va a vedere la differenza col fatturato di aprile 2020, se è superiore al 33% il crollo, si ha diritto. Fino a 400.000 euro dei ricavi o compensi dell'anno 2019, se tu nel 2019 hai avuto ricavi o compensi fino a 400.000 euro, hai diritto al 20% della differenza di quel mese. Quindi se invece che avere ricavi per 10.000 euro ne ho avuti per 1.000, potrò, e la differenza fa 9.000, avrò il 20%, quindi 1.800 netti. Se fino a 400.000, poi fino a 1.000.000 hai il 15% della differenza dei mancati ricavi, e fino a 5 milioni il 10% dei mancati ricavi. Il bonus è escluso da tassazione, ci mancherebbe, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. Giovanni Parente, del Sole 24 Ore, che ha coordinato le 4 pagine che usciranno domani. Buonasera Giovanni. Buonasera, buonasera. Allora, chiariamo alcuni aspetti, poi veniamo alle criticità. Il 20% del mancato, della differenza tra il guadagno nell'aprile 2020 rispetto a quello del 2019 può sembrare poco. In realtà possiamo ricordare che è netto, cioè che poi tu per avere sviluppato quel netto lì, io ho fatto l'esempio di 1.800 euro, avresti dovuto fatturare almeno 3.600 euro, diciamo. Di fatto sì, esatto, esatto. Quindi stiamo parlando di queste cifre. È normale che tantissime attività causa lockdown sono state completamente ferme, quindi anche per fatturare questi importi hanno avuto grandissime difficoltà. La scelta dell'Agenzia delle Entrate nel modello e nelle istruzioni è quella un po' di considerare un po' complessivamente tutti e due i fatturati a confronto, cioè tutto quello che c'era nel fatturato 2020, tutto di aprile 2020 e tutto quello che c'era nel fatturato di aprile 2019, fatturato e corrispettivi, ricordiamo, perché i corrispettivi sì, sarebbero, certo, gli scontrini battuti, tanto per semplificare e banalizzare un po'. Non è il meccanismo di calcolo non è semplicissimo, non è complicatissimo. La domanda neanche è molto complicata, perché veramente sono pochi dati da inserire. Ovviamente bisogna fare attenzione a non sbagliare quei pochi dati che bisogna inserire. Ad esempio, giustamente dicevi tu, per quanto riguarda la soglia di ricavi e compensi, come ricordavi, è un aiuto che riguarda soltanto sostanzialmente le PMI fino a 5 milioni di ricavi. Non andrà indicato il ricavo compenso puntuale all'interno del modello di domanda, ma ci sono tre possibili range fino a 400.000 euro, da 400.000 euro a un milione, sopra un milione e fino a 5 milioni. Quindi basterà in qualche modo flaggare quella range. Cioè tu clicchi e dici, sono nella categoria fino a 400.000 euro di fatturato, nella categoria fino a un milione di euro di ricavi, compensi, fatturato, esatto. O fino a 5 milioni. Qualcuno dice, chi controlla? Beh, adesso ragazzi va ben tutto, però lo mandi all'Agenzia delle Entrate, non so se hai voglia di raccontare minchiate all'Agenzia delle Entrate, sono fatti tuoi, nel senso che non è che posso iniziare l'Agenzia delle Entrate a dire il mio fatturato è quello, poi qualche informazione ce l'ha su di noi e sulle partite. Io penso che più di qualche informazione ce l'abbia, perché come abbiamo raccontato su Sole 24 Ore di oggi, ovviamente l'idea di fondo è quella di partire a erogare. Loro un'aspettativa di riuscire a chiudere entro 10 giorni lavorativi le prime erogazioni dalle domande rispetto alla data in cui sono state ricevute le istanze. Ovviamente prima paga il fisco, ma poi controlla nel merito. Vabbè, certo, questo è serio, insomma, ben tutto, ma sono soldi anche nostri che vanno dati giustamente a chi ha avuto questi crolli dei fatturati, però vanno controllati. L'altra domanda che mi viene fatta già è, scusami, non ne potranno fruire, cioè non ne potrà fruire chi ha già avuto i 600 euro a marzo e poi aprile, maggio dovrebbero essere 1000? Bisogna fare attenzione su questo discorso qui. Sono arrivate tante domande anche attraverso il sito sole24ore.com. Facciamo una differenza. Sostanzialmente dentro la platea del fondo perduto, per ora, fammi dire per ora, perché non sappiamo cosa succederà alla conversione del decreto rilancio in Parlamento, non ci sono sostanzialmente i professionisti, né quelli ordinistici, né quelli che versano i contributi alla gestione separata INPS, quindi insomma sostanzialmente i freelance intendo. Ci sono, attenzione invece, i commercianti e gli artigiani, per cui anche se hanno preso, se avessero preso i 600 euro per marzo-aprile, di fatto il fondo perduto vale anche per loro. Per loro il ristoro per il mese di maggio, ovviamente a differenza dei 600 euro, rispettando le condizioni di calo del fatturato e di limite ai ricavi compensi del 2019. Quindi fammi capire se ho ben capito, mentre i 600 euro andavano anche agli intermediari, ai professionisti iscritti alle casse degli ordini e magari delle gestioni separate, e in questo caso loro non possono comunque accedere ai contributi a fondo perduto, perché il governo ha chiarito che non le considera imprese, se ben ricordo. Certamente sì. Mentre se tu sei un'altra tipologia, cioè l'artigiano, il commerciante, il proprietario di un bar o quant'altro, che hai ricevuto o la parte IVA non iscritta a gestione separata, giusto? Non, esatto. Di ordini privatizzati, quindi una normale partita IVA, per esempio, che versa i contributi all'INPS? Sì, diciamo anche qui è bene fare, molto bene fare distinguo, quindi attenzione a quale categoria. Ti posso dire che però sicuramente quelle che stanno nella cosiddetta AGO sostanzialmente sono inclusi nel perimetro di questo fondo perduto, almeno come potenziali beneficiari, quindi ti ripeto, commercianti e artigiani, molto banalmente. Ma la partita IVA che svolgono sono lavori di servizio, di consulenza, così, e che non è iscritta a nessuna cassa separata? Sì? No, quelli sono sostanzialmente quelli che vengono definiti articolo 27 secondo appunto il contributo che versano all'INPS. In questo momento, lasciami dire, in questo momento sarebbero esclusi. Anche gli agenti di commercio, mi chiedono molti. Sugli agenti di commercio, insomma, sostanzialmente vedremo che cosa, quale sarà l'orientamento, insomma, che verrà preso. Quindi, insomma, la partita è aperta. Per ora si possono Sicuramente. Sì, però scusami, è aperta, ma le domande partono dal lunedì 15 giugno. Quando è che avremo delle risposte, secondo te, su questo dall'Agenzia delle Entrate? Sicuramente quelle che sono le categorie sono state definite dalla norma, che è l'articolo 25 del DL 34. La partita in Parlamento è aperta, le domande, come hai detto tu, partono dal lunedì 15, non è un click day, c'è tempo fino al 13 agosto, quindi sicuramente 24 agosto, attenzione, solo per gli eredi. Oddio. Che continuano l'attività di un titolare defunto. Il 13 agosto è il termine per presentare la domanda, agosto. Se non si rientra in questa in questa tipologia molto particolare. Quindi i termini di conversione del decreto rilancio sono intorno alla metà di luglio, quindi insomma sostanzialmente sarebbe un margine ancora per poter presentare la domanda. Ok, l'altra cosa, dunque, le aziende aperte dopo l'aprile 2000, che non hanno fatturato, hanno aperto per esempio da giugno 2019, non vedono niente? No, in questo caso non dovrebbe essere considerato il parametro del calo del fatturato, perché ovviamente mancherebbe il termine di riscontro per poter fare la variazione. E quindi non vedono nulla? No, possono rientrare, ma non vale per loro il parametro del calo del fatturato. E che parametro vale? Boh. No, sostanzialmente rientrano a seconda, dovrebbero rientrare all'interno di questa agevolazione. E poi qualcuno mi dice, siccome il minimo è 1000 euro per le persone fisiche e 2000 per i soggetti diversi, ma se io avrei diritto, facendo il calcolo appunto che il governo mi dà il 20% del mancato incasso, se io con questo calcolo dovrei ottenere 850 euro, che succede? Ne sono escluso o becco comunque 1000? Il minimo è 1000 euro. Quindi prendo comunque 1000 euro. Esatto. Allora, Giovanni, domani tutti i dettagli nel speciale del Sole 24 Ore, poi quando arriveranno i decreti attuativi ti risentiremo, perché alcune di queste categorie mi stanno giustamente bombardando di SMS e WhatsApp per capire ci sono dentro o non ci sono dentro, e anche per capire che cosa succede in chi ha aperto la partita IVA dopo il mese di aprile. Io intanto inizierei a guardare bene dal 15 giugno, chiedere anche al commercialista e fare la domanda. Quello non costa nulla, poi aspettiamo i decreti attuativi. Grazie anche a Giovanni Parente, andiamo sul GR24 e poi, al di là delle borse, oggi c'è poco, se riusciamo a fare anche i viaggi, ma soprattutto il Family Act, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ai suoi tempi non era possibile. Ma oggi Darwin può andare in radio. Qui, su Radio 24, è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Tre puntate originali in podcast sul sito di Radio 24. Dal 29 giugno on air tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Devo cospargermi il capo di Cenere, ho sbagliato una consecutio temporum nel finale della prima ora, era chiaramente se io dovessi, è uscito un dovrei, perché stavo cercando di capire anch'io alcuni elementi, ma non voglio giustificazioni, ho sbagliato, basta, il capo è cosparso di cenere. E adesso andiamo avanti. I congiuntivi e i condizionali sono importanti, quindi non sto dicendo che sia un errore lieve, ci mancherebbe, soprattutto se conduci, chiedo venia, scusa. E adesso andiamo ai dati della Protezione Civile che sono appena stati diffusi. Dunque, partiamo dai dati cosiddetti clinici. In terapia intensiva 9 persone in meno rispetto a ieri, un 3,8% in meno, un po' più basso rispetto all'andamento di ieri sulle terapie intensive. Il totale dei ricoverati cala di 247 unità, e quindi anche quello meglio invece di ieri, in linea con l'altro ieri, meglio anche di tutta la settimana, con un meno 3,8%. Meno 5,7%, scusatemi, quindi il calo è significativo perché, a parte ieri che era calato della stessa percentuale, il numero di ricoverati era meno 3,4 martedì, meno 2,7 anche mercoledì, meno 2,7 domenica, meno 3,8 venerdì scorso, meno 4,2, quindi il dato dei ricoveri va bene come percentuale e come numero. I decessi sono stati 56 oggi, che è un numero sempre alto, di 3 unità più alto rispetto a ieri, più basso invece della settimana, della media della settimana, e sicuramente anche più basso della media della settimana scorsa. Nuovi positivi sono 163 in più, e quindi nuovi contagiati, che è un dato buono rispetto ai 379 di ieri, ai 202 di mercoledì, ai 280 di martedì e anche di lunedì. È dato basso anche rispetto a domenica e rispetto a tutta la settimana scorsa. Mi sembra il dato, sto guardando, forse più basso nei nuovi contagi da un bel po' di settimane. Adesso sto cercando di capire se arriva anche la conferma dell'ANSA, però dalle serie che abbiamo noi 163 contagi in più, non riesco a trovare un dato più basso rispetto a questo. Il dato più basso che ho è 197 domenica scorsa e 177 giovedì 4 giugno. Tutti gli altri dati dei contagi, dei nuovi positivi, dei nuovi contagiati sono più alti. Adesso i decessi sembra che siano 56, dice l'agenzia, e ieri erano stati 53, sì, appunto 3 in più rispetto a ieri. Però i contagi, scusatemi che c'è adesso un dato un po' diverso sui contagi, ecco perché i contagi sono 393, vedi che l'ho dato, rispetto a ieri 379, quindi il dato è diverso, mi correggo, è un dato altino. Nei nuovi contagi, ieri 379, giorno prima 202, 283, giorno prima ancora. E di questi 393, che appunto sono un po' saliti, il 69% sono in Lombardia, 272. Poi c'è un ricalcolo della Campania che ha sottratto dal totale 299 contagi. Ragazzi, non ci sto capendo niente oggi, sospettiamo i dati definitivi perché le agenzie battono 393 contagi in più. Allora, comunque, i dati clinici, al di là dei anche perché sapete che il numero di nuovi positivi si basa sul numero di test fatti, quindi i dati clinici, ricoveri, terapia intensiva e anche decessi sono abbastanza buoni, sono buoni su terapia intensiva e ricoveri, abbastanza buoni sui decessi, perché è difficile dire 56 morti sono un buon dato, però se si va a vedere la serie storica delle ultime settimane sicuramente sono un buon dato. Allora, parleremo a questo punto lunedì anche dell'analisi che viene stata fatta dalla società Oliver Wyman su 4.500 persone in tutto il mondo, di cui oltre 2.500 in Europa, dovevano avere come caratteristica l'aver viaggiato almeno una volta in aereo nei 12 mesi precedenti. L'indagine si rivolgeva soprattutto ai viaggi in aereo e al tipo di destinazione di mete, dividendo tra l'altro tra viaggi di tipo business e invece di tipo leisure, come si chiama, quindi per vacanze. Però nel frattempo è uscita invece anche l'indagine di Demoscopea sul fronte delle vacanze, Demoscopica, l'identikit del turista post Covid-19. Ebbene, solo il 5% degli italiani ha già prenotato. In vacanza, stante l'inchiesta, dovrebbe andare un poco più della metà, il 51%. Sicilia, Toscana e Puglia sono le destinazioni più gettonate da chi ha dichiarato di trascorrere la vacanza in Italia, il 92%. Allora, e per quello che riguarda poi le rinunce, chi ha paura, chi non ha soldi, allora il 49% degli italiani che, stando all'indagine demoscopica, rinuncerà alle vacanze, lo farà per motivi economici, una buona fetta. E poi vi sarà invece, e siamo sostanzialmente al 15%. Poi un 24,9% ancora timore a viaggiare per via del coronavirus. Tra le categorie più sofferenti vi sono gli artigiani, i commercianti, gli operai e chiaramente anche i disoccupati. E questo per quello che riguarda l'indagine demoscopica. Poi i danni invece sul settore alberghiero vengono stimati da Confindustria Alberghi e Assosistema attraverso l'indagine richiesta a Tecne. Dunque, il 55% delle imprese medio-piccole poco capitalizzate sono a rischio nel sistema turistico alberghiero. E anche per il 90% degli intervistati i temi della pulizia degli spazi comuni e igienizzazione dei tessuti sono fondamentali per scegliere dove andare in una residenza alberghiera, come ha spiegato il segretario generale di Assosistema Confindustria Matteo Nevi al microfono della nostra Anna Marino. Per quanto riguarda il 2020, il 63% di coloro che già si erano mossi per lavoro ha confermato che continuerà e tornerà a muoversi per lavoro, a viaggiare per lavoro. Mentre per il 2020 solamente il 51,2% si muoverà per vacanza. Il dato più significativo invece di scarsa, chiamiamola così, prospettiva o difficile comprensione del futuro è sul 2021, dove addirittura il 52,2% degli intervistati, che quindi viaggia abitudinariamente per lavoro, ha detto che non viaggerà o non sa. Quindi all'interno di quel dato c'è molto anche derivante da quello che sarà poi il nuovo sistema di business travel, cioè dettato anche dalla digitalizzazione. Quanto ha perso il settore fino adesso e quanto purtroppo perderà? Il settore, noi abbiamo tra le altre stimate appunto le varie prospettive che, se non saranno adottate misure anti-Covid, perderà il 60% del fatturato, abbiamo stimato nel 2020. Se invece adotterà delle misure di igienizzazione anti-Covid, perderà, comunque sia, sarà sempre un settore in perdita, ma sarà stimata al 41%. Quindi quali sono le contromisure? Le contromisure sulle attese, i desiderata degli utenti, il 94,5% degli intervistati ha evidenziato tre aspetti fondamentali che cercherà nelle strutture. Uno, gli ambienti igienizzati, soprattutto gli ambienti comuni, dove ad alta, diciamo, aggregazione. L'igienizzazione delle camere e arredi e l'igienizzazione delle lenzuole, federe e biancheria da bagno, che è quella a contatto, diciamo, con il viso. Quindi con le principali, diciamo, sistemi di entrata del virus. Per quanto è disposto poi il consumatore anche a spendere di più, abbiamo anche chiesto quanti siete disposti a spendere di più per le procedure igieniche garantite. Mediamente è stato risposto che sono disposti a spendere più dell'8,3% rispetto al prezzo normale. Quindi la richiesta di misure anti-Covid è molto alta anche con disponibilità di prezzo. Quanti chiederanno informazione sulle misure anti-Covid? Dagli intervistati l'81.5% chiederà comunque sia informazioni a quello che l'albergo o la struttura ricettiva sta mettendo in atto per proteggersi dalla diffusione del Covid. E così appunto, poi vedremo lunedì anche l'indagine di carattere europeo. Allora, nel frattempo continuano ad aumentare i voli, dal 15 di giugno riapre il terminal 1 di Malpensa. Ieri abbiamo raccontato dei voli invece da Linate, soprattutto per Sicilia e Sardegna. Le compagnie invece aeree British Airways, EasyJet e Ryanair hanno annunciato invece di aver avviato un'azione legale contro il governo britannico perché rinuncia alla quarantena imposta ai viaggiatori in arrivo nel Regno Unito quale misura anti-coronavirus. È un po' strana sta quarantena, cioè, la Gran Bretagna è il paese che ha in Europa il maggior numero di contagiati, purtroppo anche di decessi, ma mentre noi abbiamo aperto loro chiudono. Ora, faccio notare che forse guardando l'andamento epidemiologico dovrebbe essere il contrario. Comunque, l'amministratore delegato del gruppo FS, e mi riferisco a Gianfranco Battisti, presentando l'orario estivo di Trenitalia, ha detto il turismo impiegherà forse 2 anni per recuperare, ha annunciato 150 frecce, 6.000 treni regionali, 150 frecce al giorno, rosse, bianche, argento, per un totale di 40.000 posti. 250 nuove fermate, 100% da luglio gli intercity ripristinati e più di 1.700 località con 6.000 collegamenti quotidiani, i nuovi collegamenti Frecce Rosse e Frecce Argento da Reggio Calabria a Torino e Venezia, e la nuova Frecce Rosse 1000 che unisce Milano e Roma a Levante Ligure, alla Versilia e l'Argentario, e il Frecce Argento che per la prima volta collega Firenze con la Puglia senza cambi intermedi. Cambiamo tema invece radicalmente, perché adesso andiamo al Family Act, annunciato ieri appunto e approvato in Consiglio dei Ministri, come ha chiarito il Premier Conte, per sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità. Un lavoro molto importante, una riforma fatta in sinergia con il ministro Bonetti e con tutti gli altri ministri coinvolti, che tocca dei punti importanti sulla famiglia, sul sostegno alla genitorialità, che riguarda anche in modo particolare le donne, il lavoro femminile. Con questa riforma si intende incentivare il lavoro delle donne, sappiamo che sono tante le donne inattive, tante le donne che non riescono sempre a mantenere il loro posto di lavoro e a continuare a lavorare, a volte sono costrette a lasciare il luogo di lavoro, quindi degli incentivi importanti per rafforzare il ruolo delle donne nel contesto lavorativo, anche nel mezzogiorno, per questo c'è stato un lavoro importante anche con il ministro Provenzano e quindi un lavoro importante che abbiamo fatto tutti insieme come governo, ma appunto come ha sottolineato il ministro Bonetti, anche con il Parlamento attraverso, lo faremo e continueremo a farlo, anche attraverso il disegno di legge del Rio. Allora, faccio una battuta che non è neanche una battuta, è indubbio che si debba incentivare il lavoro delle donne, magari per incentivare il lavoro delle donne che già ce l'hanno, create dei centri estivi che non costino il doppio e riaprite ste cavolo di scuole a settembre, perché non voglio neanche ipotizzare che adesso sediti tutto per le elezioni regionali, lo dico come inciso, ma sapete, no, sennò tutto resta in teoria. Detto questo, il Family Act piace alla maggioranza, a Italia Viva e al PD, che ne rivendicano, diciamo, l'ideazione, e io chiedo invece a colleghi del Sole 24 Ore che hanno seguito da vicino l'intera stesura del Family Act, ma soprattutto in questo caso Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Rosina, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che cosa? Abbiamo visto che c'è di tutto, i congedi parentali, un periodo minimo non inferiore ai 2 mesi di congedo non cedibile a un altro genitore e per ciascun figlio. Poi c'è la parte che riguarda l'elemento, diciamo così, più economico, l'assegno universale che sarà mensile e verrà corrisposto dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 18° anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito di imposta. E nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del 20%, così anche nel caso di figlio o figlia disabile. Qual è l'elemento, secondo lei, Rosina, più importante di questo Family Act? Così lo facciamo capire agli ascoltatori. Beh, l'elemento più importante è che sono misure integrate. Quindi l'idea di non avere singole misure indipendenti, ma un pacchetto integrato che va a toccare i 3 assi fondamentali delle politiche familiari intese come politiche di sviluppo, ovvero che vanno ad agire su quella trappola infernale in cui ci siamo infilati di bassa natalità, bassa occupazione femminile e alta povertà infantile. Questi 3 assi sono il sostegno economico, e infatti c'è l'assegno universale, che poi va nella direzione anche di essere inteso non come politica di contrasto alla povertà, ma come politica che dà valore alla scelta di avere un figlio in generale, quindi si rivolge ai bambini in sé, quindi indipendentemente dalle caratteristiche dei genitori, anche se poi è previsto un aggiustamento legato al reddito, quindi l'aspetto economico, l'aspetto del tempo, ed questo è poi legato ai congedi parentali e di paternità, e qui c'è anche un altro aspetto molto interessante dell'idea di politiche familiari che vanno a incidere anche sui cambiamenti culturali e quindi anche sulla condivisione dell'attività di cura all'interno della famiglia, che poi ha ricadute positive anche questo poi sull'occupazione femminile, ma non solo, cioè aumenta anche il benessere relazionale come dimostrano molti studi. E poi il terzo elemento, oltre al sostegno economico e il tempo, è quello dei servizi, per l'infanzia, e quindi c'è l'idea di anche qui di superare questa forte carenza cronica di servizi legati soprattutto ai nido, quindi alla fascia 0-3, che è tra l'altro molto eterogenea anche sul territorio, quindi particolarmente carente nel sud Italia, e non per questo appunto, appunto per questo il ministro Provenzano è molto interessato a questi obiettivi, perché poi sono politiche che appunto aiutano lo sviluppo anche del sud e la conciliazione tra lavoro e famiglia nel sud, dove appunto questi 3 elementi della trappola sono più accentuati, e però legati non solo alla copertura ma anche all'effettiva accessibilità e quindi anche alla retta, quindi possibilità di intervenire come sostegno alla retta. E quindi è un pacchetto che ci avvicina quantomeno alla media degli altri paesi, quindi se effettivamente venisse realizzato è un passo nella direzione giusta. Se ne parla nel 2021 da quello che ho capito io, perché adesso il CDM l'ha approvato. Senta, una cosa che mi chiedono giustamente tutti gli ascoltatori, ma in questo assegno universale vengono accorpate misure già esistenti ma che avevano canali diversi, o aumenta la dotazione complessiva? Ecco, l'idea è che nessuno ci perda, almeno quello che ho capito io, che nessuno ci perda, che venga potenziato, e però mettendo assieme, perché va anche a razionalizzare gli strumenti. No, ma già questo è cosa sono, buona e giusta, assolutamente, perché appunto, ma teniamo presente che qui sia razionalizzare, perché finora avevamo anche non solo misure estemporanee, cioè bonus che a volte c'erano poi non c'erano, non si capiva chi ne aveva diritto, chi non ne aveva, non si capiva perché alcuni ne avevano diritto e altri no. Ad esempio gli autonomi erano sistematicamente spesso esclusi da tutta una serie di benefici che riguardano anche i congedi oltre che le misure economiche, e li va a mettere assieme in un unico strumento, che è quello che fanno anche negli altri paesi. Altro aspetto cruciale, e questo ce lo insegna la Germania, perché noi abbiamo sempre citato il caso della Francia perché da sempre fanno politiche solide familiari eccetera, ma teniamo presente che la Germania si è dotata esattamente di questi strumenti proprio in concomitanza con la precedente recessione economica, e non a caso l'assegno unico universale, i congedi e tutti poi gli aspetti che riguardano anche il welfare aziendale, quindi part time, reversibile eccetera, e il potenziamento forte dei servizi poi per l'infanzia ha fatto sì che la curva demografica negativa della Germania, simile all'Italia, anzi era peggiore prima della recessione precedente del 2008, venisse invertita. Negli ultimi 10 anni la Germania ha portato a un incremento delle sue nascite di quasi 110.000 unità, quando invece l'Italia è diminuita di altrettanto. E questo fa capire come proprio nei momenti di difficoltà delle congiunture negative... Esatto, è lì che serve. Certo. Perché quasi, conta quasi di più la fiducia che si dà nel paese che scommette su quella scelta che la misura in sé. Che i soldi che ti arrivano ogni mese, ma è la prospettiva. Molto importante quello che ha appena ricordato Alessandro Rosina, che... ringrazio, così come ringrazio Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e in studio. Auguro a tutti voi un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.